Shut up and listen. This is the future of our next generation, either from the real transmission. This is a secret. Tempo è una brutta bestia, ma diversa dal punk e dal rust e dal punk a bestia. Una brutta bestia, come un ultimatum. E noi vogliono togliere il fiato e con l'imago soffocato farci venire la rabbia, farci mangiare gli uni con gli altri. Devi star calmo, devi star calmo. Chi? Questi, i servi del potere, le nuove finte umili vesti, il denaro che fa alzare, con quello vogliono farti cadere. Chi? Questi, i servi del potere, le nuove finte umili vesti, il denaro che fa alzare, con quello vogliono farti cadere. Lasciate stare le nuove generazioni in rivolta. Lasciate stare le nuove generazioni in rivolta, in rivolta. La libertà di parlare, Mary Payne. Lasciate stare le nuove generazioni in rivolta. La libertà di parlare, la libertà di parlare. Hey Mary, for all. La televisione è il lavaggio di cervello subliminale. Si sta diffondendo e ci vogliono controllare. E se vivi senza loro lo fanno nel piano reale ti spingono a suicidarti, a spararti. La televisione è il lavaggio di cervello subliminale. Si sta diffondendo e ci vogliono controllare. E se vivi senza loro lo fanno nel piano reale, nel paranormale ti spingono a suicidarti, a spararti. Bastonate preconcetti, ai pregiudizi, vaffanculo a berlusconismi vari e ai troiaggi industriali. La strada sembra urlare il nome del denaro. La strada sembra urlare il nome del denaro, del successo. Il femminio che fanno star male per farci rimanere a sedere con il loro nome dentro. Non avranno il nostro nome dentro. E noi abbiamo il loro dolore dentro. La strada sembra urlare il nome del denaro e del successo. Il femminio che fanno star male per farci rimanere a sedere con il loro nome dentro, il loro dolore dentro. E poi, dopo l'orrore, nessuno che ha torto, nessuno che ha torto, nessuno che ha torto. E poi, dopo l'orrore, e poi, dopo l'orrore, nessuno che ha torto, nessuno che ha torto. Io ci rappo dentro, non resto solo a guardare, non resto solo a guardare lo schifo che sale. E poi, dopo l'orrore, nessuno che ha torto. Io ci rappo dentro, non resto solo a guardare l'orrore che sale, l'orrore che sale. Bigottismo normale. All'inizio lei cantava, io non so fare niente, ma guarda ora. Adesso Giorgi è grande, ha uno spirito vincente, sa ballare e cantare, un piccolo fiore all'ora dell'aurora. Ma la vita avvince, ha la vita dura, ma la vita la ripaga tutta ora. Lei vince il mondo fuori, ma non può fermare la seconda vita dello spirito dell'arte. Non può fare altre carte false che l'inchino, e ora è libero, è il cammino. Il mondo non può formare lei, dovrà aspettare. Motherfucker, motherfucker, stomach stupid, showbiz.